Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi raccontiamo una storia che mi tocca da molto vicino, perché io ho conosciuto e suonato con alcuni dei protagonisti di questa che è una vera e propria epopea, di un gruppo di musicisti. Erano dei ragazzi ai tempi della storia, addirittura uno aveva 12 anni. È una storia di ragazzi che, partiti da un paese della Maremma, Montalto di Castro, negli anni 60 hanno compiuto un piccolo miracolo, hanno cavalcato il successo internazionale partendo dal nulla. Però è una storia che ci viene richiesta da uno forse più matto di me, perché ha pensato di farci raccontare questa follia e io l'ho voluto assecondare. Si chiama Maurizio Serafini, l'ascoltatore, e io ti chiedo perché hai deciso di chiedermi di parlare, e qui dico il titolo della puntata, dei Rocchetti. Ho chiesto di parlare di voi ascoltando la vostra trasmissione praticamente quasi tutti i giorni, e ho pensato che la storia dei Rocchetti, che è uno spaccato degli emigranti italiani nei primi anni 60, potesse essere interessante per far conoscere alle persone di oggi come i ragazzi, i ragazzini anzi in questo caso, avevano tutto l'interesse a perseguire la loro storia, il loro sogno, e quindi loro con un sogno e con niente veramente nel cassetto sono partiti con i loro strumenti in cassi di legno e in treno hanno raggiunto Amburgo, e da lì inizia la loro storia. Grazie Maurizio, sei stato perfetto perché hai colto il punto. È una storia che non tutti conoscono, ma è una storia che a tutti piacerà. Eh sì, parliamo dei Rocchetti. Non tutti la conoscono questa storia, eppure è una storia incredibile, perché è una storia di coraggio, di passione per la musica, è una storia di rivincita, una rivincita da parte di chi non aveva nessun tipo di conoscenza, di aiuto, di aggancio con il mondo della musica, della discografia. Siamo lontanissimi dal fenomeno dei talent show che ti mettono a disposizione tutta una serie di aiuti e di supporti che sono una vetrina per il talento o per il non talento a seconda delle vostre opinioni. Però io credo che tutti quelli che hanno vinto o comunque che sono usciti da un talent show dovrebbero ascoltare questa storia, prendere appunti su come si forma con la fatica, l'applicazione e il sacrificio una carriera musicale. Questa è una storia di ragazzi con la passione per la musica, anzi all'inizio la storia di un padre che sogna per i propri figli un futuro migliore. Siamo in un paese nella profonda provincia viterbese, Montalto di Castro, e siamo in piena Maremma, è un piccolo comune che dà sul Mar Tirreno. Mario Paparozzi, che è stato uno dei Rocchetti, ha scritto un libro di memorie nel 2013 sulla loro avventura, intitolato appunto I Rocchetti, e descrive così il luogo di origine dei fondatori del gruppo. Un cortile al quale si accede attraverso un vicolo lungo e stretto, un'immagine che dall'alto ricorda una padella, tanto che si chiama proprio Piazza Padella. La storia del Rocchetti inizia qui, in questa piazzetta, incastonata tra le vecchie case di Montalto di Castro. Sulla destra, un paio di gradini consumati dal tempo conducono alla modesta casa dove vive la famiglia Rocchetti, il papà Pietro, la mamma Lella e tre figli maschi, Mario, Santino e Alberto. Pietro Rocchetti ha ereditato dal padre il soprannome di Lupo, che si dice sia il soprannome del nonno, perché si racconta che il nonno fosse ogni tanto portasse via qualche pecora ai vicini e quindi lo chiamavano il Lupo per quello. Però insomma è un'abitudine tipicamente dei paesi quella di lasciarsi in eredità il soprannome. Pietro Rocchetti è un manovale delle ferrovie, ha tre figli maschi da tirar su e non può sperare granché per loro, perché siamo nel dopoguerra, c'è molta povertà e le alternative sono poche, di studiare non se ne parla, quindi o fai l'artigiano o il manovale o il contadino. Però Pietro sogna di offrire ai suoi ragazzi qualcosa in più, perché ha la passione per la musica, quindi ha una passione talmente forte che gli fa sognare qualcosa di assurdo. I suoi figli dovranno fare i musicisti. In casa ha una vecchia fisarmonica e Mario, il più grande, viene messo a suonarla come fosse un mestiere. Pietro Rocchetti ci ha visto giusto, perché Mario è bravissimo, sembra nato per suonare la fisarmonica, e lui è del 40, quindi nel 53, quando ha 13 anni, lui inizia le sue prime esibizioni. Nel 54 e nel 55 partecipa al concorso per fisarmonicisti, il microfono d'oro, e vince. Nei due anni successivi è campione italiano, nel 57 arriva terzo ai campionati europei. Niente male per un autodidatta. Ma nel frattempo c'è Santino Rocchetti, del 1946, e in cucina è appesa una vecchia chitarra che una volta era appartenuta allo zio Piro, soprannome dello zio Luigi, che suona la tromba nella banda del paese. Sempre dato che per Pietro, il padre, i figli dovranno guadagnarsi il pane con la musica, Santino inizia a studiare solfeggio, suona la chitarra con la serietà di un professionista, ma con un talento incredibile. Accade anche un fatto drammatico che avrebbe potuto voler dire la fine del sogno, perché Santino ha un brutto incidente, gli rimane un dito chiuso nel portone di casa, perde una falange della mano destra, ma questo non lo ferma. Vi ricordate Tony Iommi, il chitarrista dei Black Sabbath? Bene, Santino si arrangia allo stesso modo e adopera un fiammifero usato come plettro, diventa un chitarrista eccezionale e che verrà considerato uno dei migliori chitarristi europei. E i fratelli Rocchetti formano un duo che diventa presto molto richiesto in giro per la gioia di papà Pietro. Cominciano a guadagnarsi il pane con la musica, non solo il pane, arrivano le caciotte, i prosciutti, il vino buono, vengono pagati anche così, ma stiamo parlando di uno di 18 anni e uno di 12. E a questo punto loro decidono di formare un vero complesso con dei loro amici: Enzo Galli alla batteria, Giuseppe Moscaroli al pianoforte, Bruno Corbelli al saxofono, ad Alberto Venturini che canta e suona il contrabbasso, e poi naturalmente ci sono loro, Mario e Santino. Il complesso comincia a ottenere i primi ingaggi, anzi il primo è in uno dei locali più conosciuti della Roma degli anni 50, il Dancing Florida in via Francesco Crispi, una traversa di via Sistina, un passo dal teatro Sistina. Siamo agli albori di quella che tra poco diventerà la dolce vita per i Rocchetti, per le loro famiglie e anche per tutta Montalto di Castro. È l'inizio di una grande avventura che verrà costellata anche da dei buoni successi e da canzoni beat, come si usava allora. Il Falco e il Gabbiano. Ringrazio ancora Maurizio Serafini che ci sta dando la possibilità di raccontare l'epopea dei fratelli Mario e Santino Rocchetti e la loro storia avventurosa e incredibile. Siamo rimasti al Dancing Florida, o Florida, insomma, un locale molto noto allora a Roma. Ma loro sono veramente bravi, le voci corrono, c'è sempre bisogno di gente brava, quindi tutti questi ragazzi che stanno suonando in questo mitico dancing, dove le attrazioni prevedono anche numeri di striptease, e immagino la gioia di Santino, che già a 12 anni manifestava, come dire, una certa propensione nei confronti del gentil sesso, sta proseguendo questa avventura. Per fortuna Santino dimostra più anni, perché se si intuisce che lui ha solo 12 anni, la direzione del locale sarebbe costretta a annullare il contratto. Santino è determinante, come racconta Mario Paparozzi nel suo libro. Tanti musicisti che in quel periodo suonano a Roma considerano Santino un vero prodigio. Nessuno immagina che le poche nozioni di musica che ha ricevuto sono state quelle del maestro della banda di Montalto di Castro. Per il resto ha fatto tutto da solo, sotto la rigida sorveglianza del padre, che tra l'altro di musica non capisce niente. È parecchio interessato a lui Renato Carosone, in quel periodo numero uno della musica italiana nel mondo. Ma Santino è affidato dai genitori a Mario, che punta in alto e sa che per raggiungere obiettivi di un certo livello, Santino rappresenta la pedina più importante. E questi ragazzi sono veramente bravi, se ne accorge anche un impresario internazionale, Will Frank, che propone al gruppo una tournée in Germania. Dovranno stare lontani per 2 mesi, ma immaginiamo la reazione del padre, che da un lato è felicissimo, però anche assieme alla madre penserà a che Santino ha solo 12 anni ed è sballottato in un paese sconosciuto e lontano, e tutto a Montalto di Castro, che vive le vicende dei Rocchetti con una partecipazione incredibile. Quindi sentimenti contrastanti, ma tutti i ragazzi sono elettrizzati per questa avventura. I problemi non sono pochi, perché Bruno Corbelli non può partire, viene sostituito da Gianni Bonavera, che in quel periodo ha solo 15 anni, poi diventerà un musicista che farà anche lui una carriera anche più avanti. Intanto c'è il problema dei passaporti, sono tutti minorenni tranne Enzo Galli. Insomma, il gruppo ha una serie di problemi, ma alla fine è pronto a partire. In Germania i Rocchetti trovano una situazione molto diversa da quella a cui sono abituati. In Italia i locali da ballo, i night, sono frequentati prevalentemente da persone di una certa età, per lo più uomini. In Germania invece si tratta soprattutto di giovani. E quello che salta agli occhi è la presenza di tante ragazze. In Italia, negli anni 50-60, le ragazze escono poco, ancor meno la sera, e sono sempre accompagnate dai genitori. Ma qui, nel nord Europa, c'è una libertà assoluta, e le ragazze sono irresistibilmente attratte dai giovani musicisti. Se poi sono italiani, ancora di più. Beh, immagino Santino Rocchetti, che io conosco bene, come un bambino nel paese dei balocchi, insomma, alle prese. Lui, bello ragazzino, è alle prese con delle tedesche molto attirate dai bei tipici maschi italiani. Le ragazze li assediano letteralmente. Ricordiamo che Santino ha 13 anni, quindi è un momento formativo, una iniziazione che lascerà molti ricordi, e io ne ho ascoltati parecchi dalla viva voce di Santino. Ma insomma, i 2 mesi in Germania passano nel migliore dei modi, e al rientro in Italia la band è più matura sotto tutti i punti di vista. Così l'impresario Will Frank si presenta con una proposta ancora più allettante: 2 mesi a Stoccolma. Quindi alziamo il tiro anche geograficamente. Non è da tutti nel 60 poter vantare una tournée in Germania e ora una in Svezia, soprattutto per dei giovani che iniziano il loro percorso da Piazza Padella a Montalto di Castro. Rocchetti vanno forte, soprattutto nel nord Europa. Nel 60 rientrano da Stoccolma, hanno già un nuovo contratto. Questa volta è una tournée di 7 mesi in Germania. Il gruppo ha bisogno di un nuovo cantante. A questo punto che entra in scena proprio quel Mario Paparozzi, che ha scritto il libro, che in un'intervista e in occasione dell'uscita del suo libro racconta proprio questo. E allora serviva un cantante, e io cantavo perché da bambino, da piccolissimo, avevo questa passione. Mm-hmm. Però rimasi un po' male, o perlomeno molto sorpreso, quando mi dissero: guarda che però noi serve anche un contrabbassista. Allora, e allora io partivo: ma come faccio, non ho mai suonato il basso? Dice: ma ti imparerai strada facendo. E così è accaduto. E questa volta i preparativi diventano un po' più complessi, perché bisogna stare 7 mesi in Germania d'inverno, da ottobre a aprile. Poi bisogna comprare i biglietti del treno, vanno spediti gli strumenti, e loro fanno tutto da soli, non hanno nessuno che li aiuti e neanche nessuno che li finanzi, quindi si pagano tutto con quello che hanno guadagnato con i concerti, un impegno non indifferente. Ma alla vigilia della partenza tutto è miracolosamente pronto, arriva come un fulmine a ciel sereno un telegramma. Dolente comunicare annullamento contratto. Sospendere partenza Germania. Will Frank. Non è possibile, loro allora hanno speso tutti i soldi per i biglietti del treno, per la spedizione degli strumenti. Tutto il paese poi è in fibrillazione per questo evento. I genitori hanno riposto tante speranze in loro, insomma non è possibile non partire. I ragazzi ci pensano un attimo e poi con la loro incoscienza tipica di quell'età decidono di fare il salto nel buio. Perso per perso, l'importante è che nessuno lo venga a sapere. O la va o la spacca. Così il 30 settembre del 1960 i Rocchetti partono alla volta di Francoforte, hanno 2000 lire in tasca, in sei, e nessun contratto ad attenderli. E tra poco scopriremo il seguito di questa avventura incredibile. Un bacio che ascoltatore Maurizio Serafini ci ha segnalato questa storia bellissima, che è una storia che parte dagli anni 50, è la storia di alcuni musicisti che da Montalto di Castro arrivano alla Germania, arrivano alla Svezia, suonano con i più grandi, suonano con i Beatles, vanno a fare quello che loro volevano fare, cioè la musica. La storia dei Rocchetti, in particolare di Mario e Santino Rocchetti. Santino Rocchetti, quando ha 13 anni, è già in Germania a fare il chitarrista e diventerà uno dei più grandi chitarristi europei. Partiti da Roma, vivono veramente un'epopea esaltante. Li abbiamo lasciati in una situazione non proprio facilissima, perché il contratto che avevano per una tournée in Germania viene disdetto all'ultimo minuto senza spiegazioni. I ragazzi sono disperati, ma non vogliono fare una brutta figura al paese e in più hanno già i biglietti pagati. Quindi con un misto di speranza e di incoscienza partono lo stesso e qualcosa succede. Primo, passano 10 giorni allo sbando, senza un posto dove dormire, arrivando a conoscere proprio la fame. Dopodiché cominciano a essere aiutati da alcuni connazionali che organizzano una prova al Tanzcafé Regina, che è il locale notturno più famoso di Francoforte, e loro sono fortissimi anche se sono deboli per la fame, suonano divinamente. Così la sera del 10 ottobre 1960 debuttano là dove la loro carriera prende la strada giusta, come ci racconta ancora il biografo ufficiale Mario Paparozzi. Siamo partiti che facevamo di tutto, ma di tutto per quanto avessimo potuto imparare come ragazzi italiani in quel periodo appassionati di musica, cioè facevamo, ripetevamo quello che ci presentava la radio, quello che, certo, ascoltavamo in televisione. Le cover, però, le grandi. Esatto, però quando siamo arrivati in Germania abbiamo avuto subito un impatto per noi meraviglioso con Ray Charles, la musica di Ray Charles, e poi con un complesso indonesiano che ci ha veramente fatto cambiare il modo di suonare e soprattutto l'approccio con il palco. Ecco, è stato molto importante, infatti abbiamo dedicato molto del nostro suonare noi a, tra virgolette, quello che si dice la scena sul palco, certo, però sempre suonando, è sempre la scena proprio strumentale, e realizzavamo delle brevi, insomma, delle semplici coreografie e effetto, direi, ecco. Fino dai tempi della prima tournée in Germania ai ragazzi non piace come viene pronunciato il loro nome, perché i tedeschi li chiamano Rocchetti anziché Rocchetti. Allora, per avere un risultato fonetico preciso, fanno quello che verrà fatto poi per decenni, sono dei precursori, cioè sostituiscono le C con le 2K, la pronuncia è perfetta, Rocchetti con 2K, proseguono la loro tournée, vanno in giro per la Germania, Francoforte, Colonia, Düsseldorf e poi Hamburgo. Borgo, dove rimangono 2 mesi e dove torneranno poi molte altre volte, la prima volta nel 61, ma ci torneranno ancora e vivranno la loro stagione più intensa e esaltante. Il locale dove suonano si chiama Café House Menke, si trova nella Reeperbahn, la strada con decine di locali notturni che fa di Amburgo la città del vizio, la strada a luci rosse che tutti quelli che sono andati a Amburgo, me compreso, hanno visitato. Segnerà la storia della musica. Poco più avanti, sullo stesso marciapiede, c'è un altro locale, il Top Ten Club, dove suona un gruppo di 4 ragazzi, in realtà sono più di 4, di Liverpool. 2 di loro in particolare si chiamano George Harrison e Paul McCartney, vanno a sentire i Rocchetti e li invitano a ricambiare la visita. La prima sera libera che abbiamo, andiamo tutti insieme ad ascoltare la band di George e Paul. La musica dei ragazzi di Liverpool però non ci entusiasma. A noi il rock piace molto e quando sentiamo qualcosa che ci entusiasma, rubiamo molto. Ma con la band di George e Paul saremo più che onesti. Non le ruberemo niente. Ma che ci trovano in questi? Sono così elementari. Beh, insomma, i Beatles poi hanno avuto modo di sviluppare la loro complessità artistica. Comunque, la band si confronta con i Rocchetti un po' su tutto. Intanto sui compensi, perché i Rocchetti guadagnano molto di più dei Beatles, anche sulla durata della tournée. Loro stanno già per tornare in Inghilterra, mentre Mario e Santino rimangono ancora per parecchi anni in Germania, fino al 65, lavorando senza mai un giorno di sosta. Girano tutte le più importanti città del paese, che a quel tempo è il fulcro della musica emergente che conquisterà il mondo. Non riesco, ancora oggi non ci riusciamo a spiegare come la Germania all'inizio degli anni 60 fosse proprio la fucina dove arrivavano musicisti da tutte le parti del mondo. Poi dopo la cosa si è spostata in Inghilterra, certo. Ma guarda caso proprio i Beatles da ragazzi, da giovani, sono partiti dalla Germania, perché tutti lì venivano a suonare da tutte le parti del mondo, ripeto. I complessi più famosi allora, certo, che giravano la Germania erano indonesiani, pensa un po'. Vedi, prima di Toir già gli indonesiani invadevano l'Europa. Comunque, qui c'è un bivio, perché i Beatles tornano in Inghilterra, cominciano a abbandonare il repertorio delle cover, iniziano a fare i loro pezzi e il resto lo sappiamo tutti. E i Rocchetti invece rimangono in Germania, hanno una carriera che sembra sfolgorante, ma sempre come gruppo notturno, diciamo, da night. E allora, durante una vacanza in Italia, accade qualcosa che fa deviare le loro vite, perché suonano con alcuni amici alla Marina di Montalto di Castro, a casa loro, e lì li sente Piero Focaccia, che allora era un cantante niente male, per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, per dirvene una, e lui sta facendo il militare in questa zona. Rimane talmente impressionato che chiama il suo impresario Sandro Gagliardini e gli dice di precipitarsi sul posto. Questo è uno degli impresari più importanti, a Caterina Caselli, Bobby Solo, l'Equipe 84. Bene, lui ascolta i Rocchetti sulla spiaggia di Montalto Marina e decide all'istante. Quei ragazzi suoneranno al Piper di Roma, il locale più prestigioso dell'epoca in tutta Europa. Settembre 1965, 2 minuti prima delle 10, una band completamente sconosciuta in Italia debutta al Piper Club di Roma e conquista la folla. Si parla subito di loro come dei Beatles italiani. Firmano prima un contratto con la CDB di Carmine De Benedictis, che li fa debuttare con i primi 45 giri, e poi vanno alla CBS, poi tornano con De Benedictis che li porta al Cantagiro. 1967, la formazione di Rocchetti è un po' cambiata, c'è un nuovo batterista, un tedesco, Tassilo Burkhard, ma soprattutto manca Mario Rocchetti, il fondatore, perché sta facendo il militare. Però il successo c'è lo stesso, soprattutto grazie alla canzone Black Time, che è un brano composto da loro e che li rappresenta molto. Yeah. dopo il successo al Cantagiro, i Rocchetti incidono ancora un brano in puro stile Rhythm and Blues, Ti rivedrò tra gli angeli, e qui le doti canore di Santino, quella sua voce sporca, rauca ma con grande estensione vocale, vengono messe in evidenza. Di lì a poco i Rocchetti si divideranno, la loro età media non arriva a 24 anni, eppure la loro avventura è finita. Santino entra nel gruppo che accompagna Nino Ferrer, ma poi inizia una carriera come solista, partecipa 3 volte al Festival di Sanremo, poi ci va anche come corista, fa l'autore, lo strumentista, suonerà con me anche in una tournée mia in Canada, e poi la dinastia continua perché Alberto Rocchetti, che è il fratello più piccolo, veramente troppo piccolo, era del 56, diventa un musicista, suona con me fino al 1989 e adesso è in forza da 20 anni nella band di Vasco Rossi. È lui che eredita l'appellativo di lupo dal padre, tant'è vero che Vasco lo ribattezza il lupo Maremmano. Ma a questo punto bisogna che il protagonista di questa storia ci racconti qualcosa. E lo abbiamo qui, Santino Rocchetti, buongiorno. Ciao, ciao Enrico, ciao. Come stai? Tutto benissimo. Senti, abbiamo raccontato tutta la storia dei Rocchetti, da quando tu avevi 12 anni. Sì. Quindi compreso il viaggio... Germania, esatto, ragazzi. Soprattutto, esatto, quello in cui non avevate il contratto. Sì, sì, no, inizialmente c'era partenza un contratto. E poi è stato... E poi è stato disdetto dall'impresario tedesco. Ci siamo trovati in mezzo alla strada, senza soldi, con il basso impacchettato, il contrabbasso impacchettato, arrivato, aperto questo cassone, tutto spaccato, guarda. E ci siamo trovati al freddo di Francoforte, in una circostanza, guarda, apocalittica. Però ce l'avete fatta anche lì. Sì, beh, ce l'abbiamo fatta perché ci siamo fatti sentire. Noi siamo andati comunque a suonare dove avremmo dovuto suonare. Poi ci siamo fatti sentire al Caffè Regina. Sì. Tanz Caffè Regina, che era la sala da ballo VIP dell'epoca, del momento, dove si alternavano i gruppi più forti d'Europa. Dopo abbiamo preso la mano il giro dei locali in Germania, lo so. Siamo andati in quel di Amburgo e lì è esplosa la cosa, perché eravamo a suonare, pensa, al Blau Peter d'Amburgo, era un locale che su un piccolo budello della fine della Reeperbahn, strada mitica, no, la via Veneto romana, che poi tra l'altro non ci aveva niente a che fare perché c'erano solamente grandissimi locali nostri top, belle donnine che facevano spettacoli. Noi suonavamo lì, tra l'altro, in un locale stranissimo che apriva alle 3 della mattina, davanti proprio 20 metri sfalsato dallo Star Club d'Amburgo, dove si alternavano Fast Domino, Jerry Lee, Chet Berry, Brenda Lee. Mamma mia. Tutti i più grandi della musica mondiale. Facevano un'ora a testa, dalle 3 del pomeriggio alle 3 della notte, si alternavano tra i Charles. I Beatles è un altro aneddoto bellissimo, perché George Harrison, Lennon e Paul McCartney erano tutte le mattine, perché loro accompagnavano Jim Vincent e Tony Sheridan. Tony Sheridan. Si chiamavano i Silver Beatles, mancanti di Ringo Starr. C'era Pete Best ancora. Pete Best, bravo, l'olandese. E tutte le mattine venivano a bersi delle birrazze grandi. Noi suonavamo in questo locale particolare, che era praticamente un bar, dove loro intorno si sedevano e noi suonavamo dentro questo bar a semicerchio. Venivano tutte le mattine. Io ero un chitarrista mica male a quell'epoca. Pure dopo, dei brani con la chitarra tipo Blues Orange Special. Poi io mi ricordo bene, perché quando abbiamo suonato assieme, quando sei venuto a suonare in Canada, con me, abbiamo ribaltato Toronto e ne parlano ancora adesso. È stata una bella esperienza. Senti Santino, l'ultima cosa che ti voglio chiedere. Sì. Ma che com'è finita la storia? Tu dopo hai fatto un sacco di dischi, festival di Sanremo, ne abbiamo parlato, la storia ma lì dei perché è finita? Si è dissolta un po' con certe piccolezze, che poi mio fratello è andato al militare, è stato sostituito da altre persone di Civitavecchia che io saluto cordialmente, però ci sono stati dei piccoli problemi che poi sono diventati insormontabili e la cosa è finita lì. Grazie Santino, un abbraccio. Un abbraccio, abbiamo raccontato caro. Una storia fantastica, a presto. A tutti i radioascoltatori, un abbraccio da Santino, ciao Enrico. Ciao. Ci sono storie a volte sconosciute, perché sicuramente molti di voi non la conoscevano, la storia dei Rocchetti. Bene, io credo che sia una storia fondamentale per capire quanto la musica possa dare a seconda di quanto tu dai alla musica. Qui parliamo di anni di fatiche, di gavetta, quindi non parliamo dei tempi di oggi in cui un passaggio radio e una voce approssimativa possono costruire una carriera che generalmente dura da Natale a Santo Stefano. Comunque, questa era la storia dei Rocchetti e soprattutto di Santino Rocchetti, uno dei più grandi chitarristi europei, e ve lo dico perché lo so e perché ci ho suonato assieme. Se volete mandarci altri commenti, scriveteci a ilfalcoilgabbiano@radio24.it e chiedeteci anche se volete che noi ci si occupi di qualcosa o di qualcos'altro, e se volete mi trovate anche sui vari social. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.